Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio in questa puntata inevitabilmente speciale, ma non più di tanto, perché parliamo anche in questo caso, continuiamo a parlare di denaro come facciamo sempre, ma in questo caso di denaro destinato alla solidarietà e alla mobilitazione che è stata enorme in tutta Italia in queste ore per cercare di dare il massimo aiuto, il massimo sostegno alle famiglie terremotate dell'Abruzzo. Ieri la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato i primi provvedimenti di urgenza per affrontare la situazione in Abruzzo. I punti di intervento sono molti, nelle prossime ore potrebbero arrivare il congelamento dei mutui e dei crediti di imprese e famiglie, come è già avvenuto in passato in circostanze simili, come per il terremoto in Sicilia nel 1990, per quello del 97 in Umbria, per quello del 2002 in Molise. Ieri il presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, Corrado Faissola, ha invitato le banche associate a valutare l'opportunità, e speriamo che questo invito venga accolto repentinamente, ci risulta che sia così, di non riscuotere le commissioni su bonifici o su altre forme di trasferimento di fondi a favore di iniziative a sostegno dei cittadini colpiti dal sisma in Abruzzo. Alcune banche, ancora prima dell'invito del presidente Faissola, hanno agito di propria iniziativa. Oggi vi racconteremo allora come si stanno mobilitando le banche italiane, in modo tale che anche voi possiate avere così conto di come contribuite come singoli cittadini con le vostre donazioni, e quindi una volta che le banche hanno attivato singoli conti correnti, che destino danno a quanto hanno raccolto. Ma vi racconteremo anche di altre iniziative, come per esempio quanto sta facendo la conferenza dei rettori italiani. Abbiamo sentito poco fa nello speciale di Maria Luisa Pezzali il mondo dell'università e della scuola sconvolto per la tragedia dell'Aquila. Sentiremo anche il mondo delle poste, attivissimo in queste ore per l'organizzazione di centri di uffici postali mobili. Ne parleremo tra qualche minuto. Cominciamo subito con i nostri primi ospiti di oggi. Vi invito anche a telefonare, a raccontarci. La solidarietà generalmente chi la compie non la racconta. Ci sono tante ovviamente iniziative che ogni giorno noi compiamo in segno di solidarietà per ogni destinazione possibile. Non è molto spesso molto elegante raccontarlo, però magari se avete delle domande su questi argomenti rivolgetecele, cercheremo di darvi anche qualche informazione su questo. E giustamente i canali di cui potremo raccontarvi sono miriadi, ci sono iniziative di ogni tipo sul territorio, la Croce Rossa, l'Avis, la Caritas, in tanti si sono mobilitati, ne abbiamo dato conto in ogni ora in tutti questi giorni. Se avete ancora delle domande, delle curiosità da soddisfare, eventualmente raccontatecele all'800240024 e cercheremo anche di darvi delle risposte. Presidente di Banca Mediolanum, Mennio Doris, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi, ringrazio anche. Grazie a voi. Ci faranno compagnia in questa primissima parte di Salva Danaio, poi andremo avanti con una staffetta di ospiti. Ringrazio anche Enrico De Cleva, rettore dell'Università Statale di Milano e presidente della Conferenza dei Rettori. Rettore, buongiorno. Buongiorno. Allora, comincio con il presidente di Banca Mediolanum, Doris. Parlavamo della mobilitazione del sistema bancario. Staccare un assegno è molto facile, poi ovviamente bisogna anche concretizzare l'intervento. Voi avete già deciso di stanziare, e tra l'altro leggo dal comunicato stampa, inizialmente la cifra di 1 milione di euro a favore dei vostri clienti colpiti dal terremoto. Intanto illustriamo, presidente, questa iniziativa. Sì, noi abbiamo fatto esperienza di quanto avevamo deciso già con l'alluvione del Piemonte nel 94. Con i nostri clienti siamo in grado di vedere chi sono, che danni hanno avuto e così via. In quell'occasione là abbiamo stanziato 1 miliardo di lire, abbiamo mandato i nostri periti a valutare i danni e 3 mesi dopo l'alluvione abbiamo consegnato un assegno circolare a ognuno di queste persone, che non copriva tutto il danno che avevano subito naturalmente, ma era stato un primo aiuto concreto, immediato, per ripartire. Certo. Per ripartire. Ecco, allora abbiamo deciso di fare la stessa cosa, abbiamo stanziato subito 1 milione di euro, naturalmente dovremo fare prima una panoramica per vedere quanti sono i clienti, che danni hanno subito, e vedere anche come incrementare questo 1 milione di euro, perché avremo un certo numero di clienti coinvolti naturalmente, ma abbiamo già i dati precisi sui nostri collaboratori che sono stati coinvolti. Purtroppo in un caso un nostro collaboratore ha perso il figlio proprio nella casa dello studente dell'Aquila, dove si era recato proprio la sera di domenica perché riprendevano le azioni lunedì, e questo ci lascia impotenti perché di fronte alla morte non si può proprio far niente. Una tragedia immensa, sì. Immensa. Ma proprio per questo motivo allora abbiamo preso più coraggio nei confronti degli altri, che per fortuna, parlo sempre dei nostri collaboratori, sono sei, hanno avuto danni ingentissimi alla casa, all'arredo, a tutto, ma per fortuna non ci sono morti o ferite molto leggere. Presidente, volevo anche chiederle un commento in merito a questo invito che ieri il presidente dell'ABI, Corrado Faissola, ha rivolto a tutte le associate. Credo che poi riguardi voi relativamente, perché operate prevalentemente per quello che riguarda i conti correnti con lo strumento dell'online, che in genere è uno strumento che elimina tutte le commissioni, i trasferimenti, bonifici, versamenti e quant'altro. Però ecco, il presidente ha detto quantomeno le banche siano invitate in questo momento a non applicare commissioni su chi vuole fare una donazione. È assolutamente dovuto fare tutti i servizi assolutamente gratuiti, su questo non ci sono dubbi, e credo che non debbano servire neppure sollecitazioni. Per quanto riguarda per esempio i mutui, noi abbiamo clienti qui, i mutui dell'Aquila, della provincia, e la prima cosa che ho fatto, ho dato subito disposizioni perché si blocchi istantaneamente l'incasso delle rate del mutuo, al di là di quelle che possono essere le decisioni del governo. Cioè, di fronte a un fatto del genere, ognuno si deve muovere subito, all'istante, con tutte le cose che può fare per essere di sollievo a queste persone così, così sfortunate. Quindi noi subito abbiamo provveduto con i mutui, poi vedremo se ci sono casi di affidamenti, anche là subito è tutto bloccato per quanto riguarda quella zona là, e adesso si tratta di dare subito assistenza. Per esempio, subito dopo Pasqua manderemo giù un camper perché tutto è crollato, uffici eccetera, per essere là di fianco alle persone, un camper della banca, certo, per qualsiasi necessità. Che banalmente magari non possono neanche fare un prelievo del proprio denaro. Non possono fare niente, quindi mandare subito il camper là, ci sarà subito dopo Pasqua per le necessità. Poi abbiamo mandato giù altri nostri collaboratori per essere di supporto a quelli che già abbiamo là, ma che naturalmente hanno subito il crollo della casa e così via, e loro stanno lavorando, fra l'altro questi, come volontariato per assistere, per assistere tutti gli altri. C'è tanto da fare, ce n'è per tutti. Presidente, un'ultima cosa, poi so che ci deve lasciare. Voi avete contestualmente, oltre a questo stanziamento diretto 2 milioni di euro e le iniziative che prenderete dopo Pasqua, il camper, tra l'altro molte altre banche già il camper lo hanno inviato, adesso ne parleremo, avete anche contestualmente, dicevo, aperto un conto sul quale è possibile convogliare gli aiuti destinati, anche in questo caso ancora a favore dei vostri clienti. Sì. E noi vogliamo sollecitare proprio la community Mediolanum, noi abbiamo più di 1 milione di clienti in tutta Italia, basta un piccolo sforzo di questo 1 milione di clienti per risolvere in maniera molto forte le problematiche di quelli degli abruzzesi che hanno subito il danno. Chiediamo a chi ci ascolta di collegarsi col sito www.bancamediolanum.it, e la trovano tutte le indicazioni del caso, perché l'IBAN è molto lungo eccetera. Io spero che anche le altre banche facciano in questo modo, in maniera tale che, conoscendo direttamente le persone, le famiglie, le problematiche che hanno, i fidi che hanno, i mutui, i danni che hanno ricevuto, perché siamo in grado di valutarli, possiamo fare un intervento molto molto efficace, indirizzato persona per persona e in tempi molto brevi. In tempi molto rapidi, perché questa è la cosa più importante. Perché questo è quello che conta, quindi subito la sospensione di mutui o di qualsiasi altro pagamento, ma poi bisogna essere là con loro, con un po' di denaro, di liquidità, di aiuto concreto, perché devono mangiare, devono dormire, hanno le necessità di tutti i giorni che vanno avanti. E naturalmente là ho visto una mobilitazione generale con le tende, con gli alberghi, i requisiti eccetera, ma poi bisogna guardare subito avanti, e io credo che le istituzioni private, che hanno una conoscenza diretta, specifica, persona per persona, in grado di valutare tutto quello che è successo, i danni che hanno subito possono intervenire molto rapidamente, al di là di quando verranno ricostruite le case eccetera, dove il governo ha promesso di fare molto molto rapidamente, ma noi possiamo fare ancora più rapidamente per assisterli nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E noi vi monitoreremo attentamente, vi seguiremo, Presidente. Grazie molte per essere stato con noi, le auguro buon lavoro. Grazie a lei. Grazie e andiamo a lei. Al Rettore dell'Università Statale di Milano, vi dicevo, il Presidente della Conferenza dei Rettori, il Rettore Enrico De Cleva, che saluto di nuovo. Rettore, tra l'altro io ho notato che non appena è scoppiata questa terribile emergenza del nostro Paese, tra i primi ad attivarsi ci siete stati proprio voi insieme alla Caritas, non congiuntamente, ma ho notato che il vostro conto corrente è stato uno dei primi ad essere partito. Adesso non è che qua è una questione di merito per nessuno, naturalmente, però questa è una cosa che ho notato l'altra mattina, mi aveva incuriosito parecchio. Ovviamente tutta la vostra attenzione è soprattutto rivolta al mondo studentesco e alla Casa dello Studente. Come si fa a poter supportarvi? Ma dunque noi ci siamo attivati in più modi. Anzitutto diciamo che praticamente tutte le università stanno raccogliendo fondi al loro interno presso i dipendenti, personale docente, tecnico-amministrativo, che offrono da un'ora a una giornata di stipendio, quindi poi questi fondi d'Ateneo confluiranno in un fondo CRUI, che è appunto quello a cui si riferiva lei, che è stato attivato subito dopo le prime notizie. A quale banca si appoggia, tra l'altro, Rettore? Io le posso dare il codice IBAN. Adesso lo troviamo, perché Sul sito della CRUI, e questo è un punto che dovrebbe riguardare sia interventi di emergenza sia interventi più in prospettiva, quando si tratterà di ricostruire la Casa dello Studente e di intervenire sulla situazione disastrosa degli edifici dell'Università dell'Aquila. Poi c'è un gruppo importante di ingegneri che fanno parte di un consorzio interuniversitario di ingegneri sismici, i quali sono già sul posto, e qui c'è stato un invito che è stato mandato a tutte le università perché si possa costituire una rete di presenze costanti, perché una cosa sono i primi giorni, poi il problema è che queste emergenze durano settimane o mesi, e quindi occorre anni, Rettore, e poi anni, ecco. Naturalmente anni, poi le ricostruzioni, quindi questo è, dal punto di vista delle competenze l'università può offrire molto. Poi c'è quello che si potrà fare con riferimento alle attività di didattiche immediate e relative al prossimo anno accademico. Qui molto giustamente il Rettore dell'Aquila e i colleghi dell'Aquila stanno sforzando perché le attività continuino all'Aquila. Stiamo parlando appunto della prosecuzione dell'anno accademico di almeno 27.000 studenti. Infatti. Quindi noi diciamo che le università, molte università, praticamente tutte, sono disponibili ad ospitare, svolgere un ruolo attivo, però a più volte abbiamo ribadito al Rettore di Iorio che noi vogliamo fare quello che serve a loro e quello che loro ritengono essenziale, quindi aspettiamo indicazioni da questo punto di vista, comprendendo molto con molta adesione anche personale il loro desiderio di poter riprendere quanto prima magari un'attività di fortuna, magari sotto le tende, ma all'Aquila e non vedersi gli studenti, certo, che partono. La scuola prima di tutto, chiaramente. Infatti, qui stiamo parlando di ragazzi più grandi che sicuramente possono sopportare questa tragedia in maniera diversa rispetto ai più piccoli, però anche quello è un'indicazione di ritorno alla normalità. Rettore, io devo salutarla perché questa prima parte di Salvadanaio si conclude, ma tanto torneremo sicuramente a sentire per capire anche come va la vostra sottoscrizione, quindi quanti fondi anche riuscite a raccogliere, soprattutto come poi concretamente riuscirete a destinarli. Tra l'altro il nome del conto, gli ascoltatori interessati possono trovarlo sul sito della Conferenza dei Rettori, CRUI è Università Emergenza Terremoto, l'IBAN è sempre lunghissimo, però la banca d'appoggio, lo abbiamo ritrovato, è Unicredit. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, stiamo parlando del fronte delle donazioni in campo. Qualche agenzia tra l'altro ha già così eseguito qualche stima su quello che è stato complessivamente possibile raccogliere fino a questo momento. Si parla di una decina di milioni di euro per aiutare le famiglie abruzzesi colpite dal terremoto. Il fronte delle donazioni non ha sicuramente perso tempo. Noi da qualche giorno stiamo seguendo tutti i vari filoni che si sono aperti. Sono tantissimi, tutte le associazioni di volontariato, le organizzazioni di volontariato si sono mosse. passasse in maniera molto molto intensa e attiva dai primissimi minuti dell'emergenza. Abbiamo sentito l'esperienza della conferenza dei rettori, tutto il mondo bancario assolutamente attivo in queste ore per organizzare e attivare conti correnti verso cui è possibile devolvere quanto possiamo permetterci ovviamente di devolvere. E le iniziative concrete poi ci sono, ce le hanno raccontate alcuni esponenti del mondo bancario, ma noi adesso stiamo andando avanti con altre testimonianze. Sentiremo Claudia Benedetti, che anzi ci ha già raggiunto, dirigente responsabile della comunicazione di Federcasse. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo con noi anche Paolo Campobasso, Senior Vice President, è una carica molto impegnativa. Dottor Campobasso, Chief Security Officer di Unicredit, comunque Banca Unicredit, che ci racconterà come sta collaborando molto intensamente con la Protezione Civile. Campobasso, buongiorno. Buongiorno a voi. E abbiamo anche Carolina Gianardi, responsabile retail di BancoPosta. Sono le tre figure con cui concluderemo questa puntata. Gianardi, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Volevo però subito farvi sentire la testimonianza di Daniele da Arezzo, che devo dire che mi ha fatto già subito un po' arrabbiare. Sentiamo un po' come la possiamo risolvere. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Ci dica un po', allora lei è andato a fare una donazione? Ho fatto una donazione ieri mattina subito, al di là dell'importo donato, è giusto, ognuno fa quello che può. Daniele, basta anche un euro, tra l'altro con la numerazione solidale attivata dagli operatori telefonici, poi magari ridò anche il numero. Proprio per un euro mi sono ritrovato a pagare una commissione di 3 euro su un bonifico fatto su un conto però terremoto, e la cosa mi ha dato molto. Certo. Stamani mattina io ho fatto presente anche a delle persone con cui ho parlato. Mi hanno telefonato e mi hanno detto: guarda, io ho pagato delle commissioni imposta minore rispetto alla banca, ma ho sempre pagato delle commissioni con un fondo che è per terremoto. Lo so, adesso la dottoressa Gianardi l'ha allerto già subito allora su questo aspetto, che ci viene sollecitato anche da numerosi messaggi al 349-238-6666. Allora Daniele, diciamo che fino a ieri, per quello che riguarda il mondo bancario, non c'era stato l'esplicito invito dal presidente dell'ABI Faissola a non far pagare commissioni su questi versamenti. Le banche che io ho interpellato ci hanno assicurato che non devono essere versati. Qualora fossero state applicate queste commissioni, le banche che abbiamo sentito ci hanno detto i clienti possono chiedere una restituzione. Adesso non so con che modalità, gli impiegati molto spesso non sono documentati su quello che deve essere fatto. L'invito che faccio io, anche se lei mi pare che abbia eseguito in maniera molto corretta questa operazione, è di essere molto espliciti quando si fa la donazione, spiegare la causale del versamento è il terremoto dell'Abruzzo, pertanto nessuna commissione di versamento, perché se uno non può permettersi di versare più di 20 euro ed è già tanto, se ci buttiamo dentro 3 euro di commissione, perché la banca deve speculare in questo frangente su questo, Daniele? Quindi non sono i 3 euro, perché se vanno anche per 3 euro... No, però è che è proprio tutto l'aspetto che è molto spiacevole, certo. Lì per lì mi sono arrabbiato. Daniele, guardi, allora facciamo così, per essere eleganti le chiederemo in privato qual è la banca e poi la sollecitiamo noi ad intervenire di conseguenza, va bene? La ringrazio. Grazie per la sua testimonianza. Gianardi, posso venire subito da lei? Mi spiega perché è necessario far pagare 1 euro per chi vuole fare una donazione? Attraverso le Poste Italiane? Certo, ma allora Poste Italiane ha aperto da ieri 7 aprile questo conto corrente postale il 10.400.000. Chiaramente le modalità di versamento sono modalità diverse, quindi può essere fatto con bollettino, può essere fatto in contatti direttamente all'ufficio postale, piuttosto che può essere fatto online chiaramente dai titolari del conto corrente, diciamo, BancoPosta. Allora, per quel che riguarda i costi associati, il servizio online confermo che è gratuito, quindi il versamento che viene fatto direttamente dal servizio online del conto corrente è gratuito. Chiaramente il versamento in contanti è gratuito per sua natura. Per quel che riguarda il bollettino, c'è il costo diciamo tecnico dei bollettini, che è di 1,10 euro, che però Poste Italiane sta valutando di darlo in beneficenza. Benissimo Gianardi, la ringrazio per questa informazione, perché è un aspetto non tanto, io capisco che poi questa è la modalità che va fatta pagare, non è questo che viene messo in discussione, è proprio che il frangente è talmente delicato che un balzello di questo tipo sta proprio storto rispetto a tutta la situazione. Detto questo, ringraziamo appunto per questa presa di coscienza delle Poste Italiane di questa problematica. Voi intanto vi siete attivati in maniera enorme, 5 tir sono arrivati ieri mattina all'Aquila per consegnare migliaia migliaia di tende, 20 esperti a disposizione della Protezione Civile. Avete anche il conto corrente che avete attivato subito, se non sbaglio, su richiesta della Regione Abruzzo, che si è appoggiata a voi. Sì, di fatto è un conto corrente che fin da ieri è operativo proprio su richiesta della Regione. Ripeto, il numero è 10.400.000. E il numero invece di Poste Mobile per il la raccolta di fondi? Mobile, perché allo stesso modo è possibile su Poste Mobile, è 377-20-48580. Anche qui è possibile, diciamo, dare il contributo con modalità diverse, sia come SMS che come bonifico da cellulare per chi ha associato un conto corrente Banco Posta o una carta prepagata Poste Pay, oppure può effettuare una carica direttamente sul numero speciale che, ripeto, 377-204-8580. Tra l'altro leggevo che il 90% dei 547 uffici postali presenti nella regione è regolarmente aperto, 53 però sono stati costretti, sì, a rimanere chiusi. Diciamo che da oggi ci sono anche 10 uffici postali mobili che sono già operativi nella zona, e 2 aggiuntivi saranno attivati anche nei prossimi giorni. E quindi, insomma, anche lì ci si deve andare per forza di cose ad assistere queste persone anche dal punto di vista bancario e finanziario concretamente. Dottoressa Gennardi, rimanga con noi, io intanto continuo nella mia esplorazione con gli altri esponenti del settore bancario e finanziario nazionale. Sentiamo però anche un altro ascoltatore, Stefano d'Alessandria. Buongiorno. Stefano, ci dica. Niente, io volevo portare una piccola testimonianza con magari è un'idea per qualcuno. Con l'attività commerciale che gestisce mia moglie, che è un ristorante, abbiamo lanciato una sorta di operazione denominata Un caffè per l'Abruzzo. Per 10 giorni abbiamo deciso, senza gravare ovviamente sulla clientela, di devolvere per ogni caffè somministrato 1 euro sul conto istituito dalla Croce Rossa Italiana per l'emergenza Abruzzo. Stefano, potrebbe essere un'idea. Grazie per l'idea, grazie anche per la sua iniziativa personale. Peraltro, visto che ha citato la Croce Rossa, volevo dire una cosa. In molti di voi in questi giorni ci hanno telefonato, scritto soprattutto delle mail, perché volevano sapere come, per esempio, fosse possibile, qualora se ne avessi l'intenzione, donare dell'abbigliamento, vestiti per le popolazioni dell'Umbria. Allora, non abbiamo ben capito se ci sia in piedi un canale di questo tipo. Sicuramente il punto più utile per avere informazioni di questo genere è la sede della Croce Rossa più vicina a noi, perché credo che sia uno degli unici, forse l'unico canale che può effettuare una raccolta di questo tipo ed eventualmente una distribuzione di questo tipo di generi. Per il resto c'è raccolta di fondi, di denaro e poi di generi alimentari attraverso la Fondazione del Banco Alimentare, di cui abbiamo parlato anche questa mattina a Soldi e dintorni. Volevo andare a Claudia Benedetti di Federcasse, perché, dottoressa Benedetti, adesso io non voglio essere subito maleducata in apertura con lei, perché anche voi siete molto intensamente impegnati nei confronti dell'Abruzzo e nelle numerose iniziative di solidarietà di cui abbiamo parlato, però ci sono degli ascoltatori che ci stanno scrivendo che proprio al credito cooperativo risulta il pagamento di queste commissioni sui versamenti e le donazioni. Allora, come vi state muovendo in questo senso? State dicendo alle filiali e agli impiegati che queste commissioni possibilmente dovrebbero essere eliminate in questo frangente? Guardi, la comunicazione è partita con grande sollecitudine e tutto è stato articolato, ovviamente, come per tutti gli operatori, con grande urgenza. Quindi tutti i profili di comunicazione che debbono essere precisati lo saranno sicuramente. La nostra iniziale indicazione era che queste iniziative dovessero ovviamente essere assorbiti i costi operativi dalle aziende. Peraltro le aziende si stanno già mobilitando, perché noi abbiamo avuto già delle risposte di consigli di amministrazione delle banche che si sono, molti si riuniscono all'inizio della settimana, si sono già attivati devolvendo somme anche abbastanza rilevanti sul conto corrente di categoria di sistema. Ovviamente deve anche l'operatività essere conseguente, quindi lo preciseremo di sicuro in maniera ancora più chiara. E infatti non ci dimentichiamo che poi proceduralmente, purtroppo lo abbiamo scoperto in questi anni, non sempre per le banche è possibile agire in tempi rapidi su qualsiasi questione, lo abbiamo visto anche per tutte le iniziative sui mutui in questi mesi, figuriamoci in un frangente di emergenza come questo se è possibile attivarsi ragazzi nel giro di pochi giorni, però noi prendiamo atto anche dello sforzo che tutto il sistema sta facendo. Molti ascoltatori continuano a dire sì, vabbè, ma in altre trasmissioni li bastonate, comunque ve la prendete con le banche per come si comportano su certe cose, adesso invece state facendo questa trasmissione. Signori, questo sta accadendo nel nostro paese. Noi facciamo raccontare alle banche quello che stanno facendo, se possiamo diamo una mano a raccogliere questi fondi, se non vi convincono le banche ci sono la Caritas, c'è il Banco Alimentare, c'è la modalità con l'SMS, con gli operatori telefonici, i canali sono tanti. Io direi che per questioni di coscienza forse in queste ore tutti dovremmo intervenire a prescindere dal canale prescelto, e poi sta la coscienza di tutti fare in modo che questi fondi che vengono raccolti vadano a buon fine, a destinazione. Lo vedremo sicuramente bene nei prossimi mesi. Eccoci ritrovati in diretta, un ascoltatore, e poi volevo chiedere un'altra cosa a Claudia Benedetti di Federcasse, perché tra l'altro 30 milioni di euro sono già stati varati per un sostegno immediato alle imprese, poi magari ci facciamo raccontare anche questo. Però prima Salvatore da Mantova all'800240024, ritorniamo con queste commissioni sui bonifici. Salvatore? Pronto, buongiorno. Buongiorno, ci dica rapidissimo, grazie. Sì, vediamo di farcela. Allora, mia moglie ieri ha fatto il bonifico sulla banca agricola mantovana. Sì. Praticamente è andata in banca e aveva delle coordinate bancarie che però evidentemente risultavano di un'altra banca, e l'impiegato gli ha detto: senti, se fai il bonifico con queste altre coordinate, le nostre, non paghi le spese. Le spese del bonifico. E così beh, infatti, stato. Magari dicendolo esplicitamente subito all'impiegato, si trova il modo per poter evitare di pagare le spese, Salvatore. Quindi, insomma, il suo versamento è andato a buon fine senza spese? Senza spese, ma senza che noi ne sapessimo niente, perché io ero convinto che bisognasse pagare il bonifico ed era tutto lì. Invece abbiamo trovato la sorpresa che ci ha tolto questa spesa. Un impiegato che ha fatto il suo dovere. La ringrazio molto, Salvatore, per la sua testimonianza, quindi ribadisco, andiamo in banca e diciamolo con grande chiarezza quello che è il destino dell'operazione che stiamo facendo. Un'ultima domanda, Claudia Benedetti, Federcasse, allora 30 milioni per il sostegno immediato alle imprese, invece il conto corrente che avete attivato, il credito cooperativo per l'Abruzzo, ha già teoricamente un destino, oppure vedrete strada facendo che appunto destinazione dare ai fondi che raccoglierete? Noi abbiamo un'esperienza che direi in qualche modo ci può guidare, già in altre occasioni purtroppo simili il credito cooperativo si è attivato, e direi in questa occasione ringrazio già i tanti clienti che si sono presentati agli sportelli chiedendo, prima che il conto corrente venisse comunicato, di versare dei contributi. Il conto corrente, quindi 32.000 che abbiamo attivato all'OAPO, sarà destinato sicuramente per l'emergenza, ma anche, come abbiamo fatto, ripeto, in precedenti circostanze, anche per la ricostruzione. Quindi da un lato sicuramente, poi tutti gli estremi ovviamente dell'Iban li trovate sul sito, sono troppo lunghi. No, infatti no, proprio abbiamo evitato accuratamente di darne, certo. Però ecco, generalmente quantomeno se si va in banca, io ho fatto anche la prova con la mia, che è una banca online, ho chiamato e ho detto: guardate, non ho l'Iban sotto mano, però vorrei fare un versamento per questo, e l'operatore era pronto con il conto corrente verso cui destinare appunto questo denaro. Pertanto c'è una mobilitazione anche in questo senso, che magari è invisibile ai nostri occhi, però teoricamente insomma gli impiegati dovrebbero saperlo. La lascio concludere, dottoressa Benedetti. Sì, mi scusi, su creditocooperativo.it ci sono tutti gli estremi, mentre invece volevo spendere due parole per le iniziative già messe a punto da BCC di Roma, che ha nel territorio del sisma 6 agenzie, più di 1600 soci e 10.000 clienti. La banca si è impegnata con grande tempestività in due modi: la prima mettendo a disposizione appunto questo plafond di 30 milioni per finanziamenti alle imprese e alle attività professionali, gli importi sono ovviamente limitati, 15.000 euro ma a tasso zero e con un rimborso triennale a partire dal secondo anno, quindi con una forma di flessibilità che vada incontro. E l'altra iniziativa, sempre per sovvenire all'emergenza, è la continuità del servizio. C'è già un camper, un'unità mobile che sta assicurando le operazioni bancarie in quei territori. La ringrazio molto, dottoressa Benetti. Guardi, io sto chiudendo e non ho ancora dato spazio a Paolo Campobasso di Unicredit, che tra l'altro in questi giorni ha lavorato molto direttamente all'Aquila, se non sbaglio, direttamente con Guido Bertolaso. Dottor Campobasso di Unicredit Banca, ancora buongiorno. Buongiorno a voi. Dopo due ore che ovviamente è accaduta la tragedia, ci siamo subito attivati al nostro interno, abbiamo attivato la nostra unità di crisi interna della direzione sicurezza del gruppo Unicredit, e immediatamente il nostro primo obiettivo è stato di monitorare l'attività sulle persone che noi conosciamo direttamente, che ovviamente sono i nostri dipendenti sull'area, e immediatamente poi subito dopo vedere l'operatività delle nostre filiali e quindi i danni eventualmente che abbiamo subito. Ovviamente la dimensione del fenomeno, come a tutti conosciuta, è andata a delinearsi nel tempo, nella giornata. Ed è ancora oggi oltre ogni più, come dire, ogni più lontana immaginazione, anche oggi credo, in termini di conseguenze. Assolutamente, le vittime stanno aumentando purtroppo, io dico, con numeri che diventano sempre più importanti. E quindi questa nostra prima preoccupazione ha avuto uno scopo fondamentale, quello proprio perché noi siamo molto strutturati sul territorio nazionale e strutturati anche come direzione sicurezza del gruppo, di cercare di alleviare il peso che anche la stessa protezione civile deve sostenere sul territorio per tutte le famiglie, per tutte le situazioni locali, e quindi abbiamo voluto dare il nostro contributo diretto occupandoci delle nostre persone, quindi per non gravare la struttura centrale. Quindi le 20 famiglie dei dipendenti vostri colpiti dal terremoto, ve ne siete presi carico sostanzialmente? Totalmente sotto nostra cura, dove abbiamo gestito il primo impatto e addirittura la loro sistemazione immediata con invio e abbiamo reperito veramente, possiamo dire, da tutta Italia camper e strumentazione per poter dare questa prima assistenza a loro e alle famiglie. Avete acquistato gruppi elettrogeni, ho letto, avete allestito camper con tutto il necessario, anche pannolini e giochi per bambini. Le chiedo, dottor Campobasso, un po' per continuare anche sul filone che abbiamo percorso fino a questo momento, qualora volessi fare una donazione attraverso la vostra banca devo pagare delle commissioni? Monitorate anche su questo aspetto, perché veramente 3 euro per un versamento a favore delle popolazioni terremotate mi sembra fuori ogni logica. Unicredit concorda assolutamente con questa linea e non farà pagare nessuna commissione. Tutto ciò che è accaduto, perché siamo stati anche citati su organi di stampa, perché è accaduto anche questo, è solo legato, e questo è stato un solo caso che è stato riportato, a un disguido, ma che immediatamente è stato preso cura dall'organizzazione e stornato nel conto. Quindi non c'è, e questo lo ribadisco a viva voce, nessuna commissione da parte del gruppo Unicredit su tutto il territorio nazionale. Io lo ribadisco, se non abbiamo ancora fatto un versamento, abbiamo intenzione di farlo, stimolati anche dalla tragedia che continua ad ampliare la sua portata in queste ore, diciamolo con grande chiarezza all'impiegato. E se applica la commissione di 3 euro su un versamento di 20, che quanto ci possiamo permettere, io direi intanto di lasciarlo lì, troviamo un altro canale, piuttosto andiamo a portare 20 euro in parrocchia, magari la Caritas li destina in maniera diversa, però davvero facciamo in modo che non ci se ne approfitti in questo frangente difficilissimo. Io volevo anche chiedere un'ultima cosa, dottor Campobasso, perché questa è una cosa che ci ha detto Ennio Doris all'inizio della trasmissione: come vi state muovendo? Voi avete tanti sottoscrittori di mutui e molte famiglie anche che hanno perso la casa in queste ore, avranno un mutuo con voi. Sospenderete la rata per queste persone? Ci state momento, pensando? Almeno. Posso con serenità dire che il gruppo Unicredit, per la presenza sul territorio a livello nazionale e ovviamente nella regione specifica, sta analizzando tutte le possibili forme di sostegno alle famiglie e alle imprese. Quindi in questo momento stiamo cercando le strade migliori per essere coerenti e vicini al territorio e alle persone. E questo è il grande messaggio di serenità. Dare in questo momento la soluzione, come dire. Prendiamo atto anche noi che insomma non è facile per tutti quanti. Volevo sentire Germano da Venezia, perché prima ho citato la Croce Rossa, è stato tanti anni volontario, se non sbaglio, addirittura 21 anni. Con che ruolo, Germano? Buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, io ho fatto 21 anni di servizio come militare della Croce Rossa e come volontario di soccorso ed ero, negli ultimi anni sono stato responsabile provinciale per l'unità di protezione civile. Poi purtroppo per problemi di lavoro, di famiglia, ho dovuto lasciare perché o le cose si fanno bene o non si fanno. Come si può fare una donazione con voi? Per esempio la questione del vestiario, Germano, secondo lei? Allora, basta rivolgersi a qualsiasi comitato provinciale di Croce Rossa oppure a qualsiasi gruppo, delegazione locale che l'Italia di volontari in Croce Rossa ne ha tantissimi e contattare appunto questi gruppi o i comitati provinciali e donare vettovagliamento, cioè vestiario oppure... Ecco, magari non prendiamo l'occasione per disfarci dell'abbigliamento che non vogliamo più perché non ci piace, ma agiamo con un po' di buon senso anche almeno da questo punto di vista. Questo, io ho fatto anche la guerra al Kosovo e proprio a casa mia facevamo lo smistamento. Allora, le donazioni o vanno fatte o di indumenti nuovi o meglio fare la donazione di soldi, poi la Croce Rossa in base alle esigenze del locale tramuta i soldi in vestiario oppure alimenti oppure indumenti puliti che se ne ho a posto, non siano sbagliati o mancati. E che non sia insomma roba magari bucata e rovinata, già strausata. Germano, la ringrazio, purtroppo il tempo a mia disposizione è scaduto. Volevo prima dei saluti dare due indicazioni che ci vengono chieste da alcuni ascoltatori. Un ascoltatore chiede: è possibile fare versamenti attraverso Banca Etica? Sì, tra l'altro c'è un'iniziativa congiunta con la Caritas italiana, per cui può sicuramente rivolgersi anche alla Banca Etica, alle filiali di Roma. Per quello che riguarda invece il Banco Alimentare, do anche in questo caso magari non i riferimenti telefonici ma il sito www.bancoalimentare.org/donazioni e avete sia il numero per fare le donazioni per quello che riguarda i privati, c'è poi anche un numero di telefono a cui si possono rivolgere le aziende che volessero donare generi alimentari da destinare alle popolazioni abruzzesi. Puntata molto impegnativa, molto bella. Noi torneremo ancora a monitorare successivamente nei prossimi giorni i canali finanziari attivi per sostenere la popolazione abruzzese in questa drammatica vicenda. Da Deborah Rosciani, buona giornata.